La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tali scopi. L'articolo 31 completa il trittico costituzionale sulla famiglia. Abbiamo detto che l'articolo 29 riconosce la famiglia in sé fondata sul matrimonio. Ovviamente con tutti i compromessi e tutte le aperture che erano necessarie, l'articolo 30 dà una tutela privilegiata ai minori e ai figli nati all'interno e all'esterno del matrimonio. Ma il Costituente sapeva che doveva fare qualcosa di più, cioè doveva specificare come si tutela e si protegge la famiglia. Ecco che l'articolo 31 costituisce una ulteriore promessa, una promessa di interventi a favore di maternità, infanzia, gioventù. Quindi l'articolo 31 si collega direttamente alla promessa di eguaglianza sostanziale dell'articolo 3, secondo comma. La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli e quindi favorire delle categorie, degli ambiti ritenuti particolarmente svantaggiati, proprio come maternità, infanzia e gioventù. È interessante notare come il primo comma dell'articolo parli anche delle misure economiche e delle provvidenze a favore della formazione della famiglia. E qui c'è un inciso molto interessante, perché la Repubblica agevola con particolare riguardo alle famiglie numerose. Questa tutela dell'infanzia e soprattutto della politica demografica di incentivazione alle famiglie numerose riecheggiava ovviamente le tendenze del ventennio fascista. Tuttavia, i costituenti erano ben consapevoli che proprio quelle politiche demografiche espansive avevano creato in Italia famiglie molto numerose. Molti di noi sanno bene di avere nonni che avevano 8, 9, 11, 15 fratelli. E quindi il costituente si pone il problema di dover tutelare particolarmente queste situazioni senza cercare però di fare ideologia di regimi precedenti. E questa formula anche qui di compromesso, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ci fa capire che l'Assemblea Costituente si pone i problemi e cerca di affrontarli in maniera più serena e più laica possibile. Quindi era un'esigenza dell'epoca tutelare le famiglie numerose e non potevi non porlo in Costituzione.